Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 8 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero. E prima di annunciarvi l'argomento di oggi, anche se l'abbiamo anticipato nel GR che avete appena sentito, come sempre vi parlo di quello che è il gioco, ovvero la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Ci sono ancora 1000 euro questa settimana, dovete risolvere il mistero ascoltando gli indizi che vi proporremo. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. La risposta, come sempre, può essere o un personaggio, qualcosa di molto conosciuto, oppure una delle tante notizie della settimana. Ecco qua il primo indizio. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gran bella commedia musicale firmata Garinei Giovannini, interpretata da Johnny Dorelli, adesso poi anche dal figlio, è stato in scena anche a Milano recentemente, a Roma sempre, sono con grande successo. Il primo indizio è questo che avete appena sentito, il numero verde per prenotarvi anche da subito 800 24 00 24, alle 11:30 il mistero in 24 minuti. E cominciamo invece la puntata parlando proprio di donne, perché le donne al comando potrebbero essere lo strumento, ovvero la soluzione alla crisi. E quindi di questo parliamo, vedremo come è possibile cambiare le cose, vederle da un altro punto di vista, perché in Italia al comando ci sono troppi uomini. E Marina Terragni, la nostra prima ospite, e proprio dal suo libro sono partito per costruire la puntata di oggi. E per introdurla non ho scelto che la canzone che rappresenta un po' questo mondo, e Fiorella Mannoia con uno straordinario testo che è Quello che le donne non dicono. Marina Terragni, buona domenica. Buongiorno, Marina, buongiorno a voi. Marina Terragni, giornalista di Odonna, blogger e autrice anche di questo libro pochissimo pubblicato, sentito Un gioco da ragazze. Il Corriere della Sera online intitolava qualche giorno fa Contro la crisi, più donne al comando. Dalla politica alle aziende, il valore femminile può cambiare l'Italia. E Marina, io così ho letto l'articolo, ho letto il libro e ho detto faccio la puntata su questo, mi piace. Grazie. Esiste in Italia una questione maschile? Partiamo da qui. Beh, direi di sì, perché quando mi fanno la domanda ma perché le donne dovrebbero come dire, assumersi delle responsabilità di governo, io chiedo normalmente come mai si ritiene invece assolutamente normale che siano gli uomini, dall'85 al 100% dei casi, a governare un paese fatto di donne e uomini. Se poi i risultati fossero straordinari, uno direbbe vabbè, teniamoci, sono così bravi. Non mi pare che si possa dire questo, non so cosa ne pensa lei. Quindi la questione maschile è questo nel nostro paese, e poi ci sono dei segni molto drammatici di un inasprirsi della questione maschile, che purtroppo sono un crescendo di femminicidi. L'ultima ragazza è stata ammazzata 2 giorni fa, si chiamava Vanessa, era siciliana, aveva 21 anni, è la 54esima vittima di femminicidio, cioè quello che normalmente i giornali chiamano delitto passionale, e che dobbiamo smettere assolutamente di chiamare così, perché non c'entra né la passione né l'amore, La 54esima dall'inizio del 2012, quindi siamo in crescita rispetto alle altre medie. Ne abbiamo parlato anche nel GR. Ci fermiamo un istante per gli aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo a parlare di questo libro molto interessante. Dovremmo veramente riuscirne a fare un riassunto, ci vorrebbe tutta la puntata. Cercheremo di prendere i punti più salienti. Il riposo del guerriero. Marina, io vorrei partire dalla parola potere, a cui tu dedichi più di un capitolo nel tuo libro. Sì. Ma le donne di fronte alla parola potere hanno sempre un atteggiamento di grande diffidenza e ritrosia, e quindi si inventano delle soluzioni, ma noi non vogliamo il potere, poi vogliamo il potere per fare e così via. Secondo me non è una questione meramente terminologica, è proprio la diffidenza per un dispositivo che si dà per fatale, cioè noi per organizzare la convivenza tra esseri umani e dobbiamo ricorrere allo strumento del potere e del dominio. Ecco, il ricorso a questo strumento può essere invece pensato come riducibile, fortemente riducibile, e quindi l'accumulazione del potere non è lo strumento che produce una riduzione delle fatiche, delle difficoltà e dell'infelicità degli esseri umani, ma l'aumenta, come abbiamo visto. E quindi le donne possono provare a pensare all'amore per il mondo, alla politica che lo esprime, come a qualcosa che al potere somiglia molto meno di quanto si creda. Ecco, tu avevi, cosa hai scritto nel libro, hai fatto questa osservazione, partendo da Lacan, che dice che l'opposto dell'amore non è l'odio ma è il potere, no? Questo in qualche modo è anche il motivo perché questa parola un po' spaventa, e tu arrivi giustamente a dire: e quindi forse l'opposto del potere è l'amore, e quindi forse è proprio questa la chiave che potrebbe cambiare le cose nella gestione. L'amore, noi siamo abituati, no, a cose tipo non c'entra col lavoro, non c'entra con la politica, non c'entra con il potere. Invece io penso, e credo che ne abbiamo esperienza tutti, che l'amore c'entra con qualunque. Beh, anche perché umano. C'entra con la vita, c'entra con qualunque c'entra cosa con si faccia, qualunque scelta umana. Anche, certo. Cioè, noi facciamo le cose, quando le facciamo, in cerca d'amore. Anche le cose brutte, alla fine, se tu guardi, siamo sempre in cerca d'amore. A volte troviamo delle vie molto perverse per essere amati, e quindi l'amore c'entra con tutto, e si tratta di dirselo senza infingimenti, e non si vede per quale ragione non dovrebbe avere a che fare con la politica, che dovrebbe essere amore per gli altri, amore per il mondo, cura del mondo, dovrebbe essere poter portare, per quello che riguarda le donne, il loro talento di cura, sì, sul quale immagino nessuno abbia niente da dire, proprio nelle scelte pubbliche, nello spazio pubblico. Le donne questa virtù l'hanno esercitata per millenni chiuse nelle case, diciamo che è pochissimo, che relativamente poco che noi siamo fuori dalle case. Ne parleremo anche di questo dopo. E quindi questo si ecco, tratta di questo. Secondo te gli uomini a questo punto non perché non posso pensare che gli uomini non mettano amore, no? Ovviamente, ma no. Il fatto è che non ne sono capaci, oppure non lo vogliono fare perché la ritengono una debolezza. Ma ci sono alcuni uomini, parlando della politica, certo, parlando sì, della sfera pubblica, che l'amore provano a mettercelo, diciamo così, che il loro femminile ricettivo sì, è in azione. Purtroppo sono molto pochi e vengono, come dire, schiacciati da una lingua dominante che è appunto quella indicata da Lacan, dell'opposto dell'amore, che è il potere. Devo dire che un'obiezione che viene fatta spesso: ma queste donne che poi vanno in politica non sono molto meglio, no? E così come spesso diciamo, le donne che diventano capi nel lavoro non sono meglio. Il fatto è che finché saranno così poche dovranno saper dimostrare di essere più zelanti degli uomini nell'applicazione delle regole maschili. Quindi il discorso della massa critica è veramente decisivo, insomma. Ecco, quindi proprio da qui, cioè partendo da questo, la massa critica, quindi la rete, perché c'è la rete, è lo strumento probabilmente. Beh, la rete ha visto dei risultati politici veramente straordinari. Se uno delle, a parte il caso del presidente Obama, abbiamo visto anche in Italia, per esempio, la svolta, la cosiddetta primavera milanese, senza la rete sarebbe stata impensabile. Ecco, e può essere uno strumento efficacissimo anche per un riequilibrio della rappresentanza. Per carità, poi la rappresentanza è solo uno strumento, non è che uno mitizza sì. quel passaggio, no? Però quel passaggio è assolutamente la condizione necessaria per provare a fare dell'altro. Cerchiamo di così fare una previsione, se si può, sì. o meglio facciamoci magari un augurio e una previsione, va, se sì. le cose sono diverse. Cosa succederà da questo punto di vista? Ma ieri, per esempio, dopo questa faccenda dell'appello che abbiamo fatto sì. sulla questione del femminicidio, c'è stato qualche timido segnale di risposta da parte della politica, il che significa, siamo molto spregiudicati ormai, significa che cominciamo la campagna elettorale e il punto di vista delle donne comincia a essere tenuto in considerazione. Che questo significhi un'apertura delle liste, un'apertura dei partiti, no, non c'è nessun automatismo, non sappiamo neanche che legge elettorale ci sarà e quindi è molto difficile prevedere che cosa succederà. Io penso che alcuni partiti apriranno non quanto necessario e ci sarà invece una fioritura di liste civiche dove le donne conteranno molto di più. E secondo me, per quello che riguarda la dialettica liste civiche e partiti, il risultato elettorale delle amministrative del prossima domenica sarà molto interessante. Cosa possiamo fare? Ma secondo me voi uomini sì. che credete che insomma che questi vecchi maschi, perché poi è una questione di qualche centinaio per quello che riguarda la politica, di vecchi maschi abbarbicati lì al seggiolino, credo che appunto anche per voi uomini sia diventato una questione tollerabile. Dateci una mano e quindi credeteci anche voi, avere fiducia in questo è secondo me già molto importante. E poi quando sarà il momento di votare, se ci daranno la possibilità di esprimere preferenze, cosa di cui dubito, è andare a votare con questo intento, insomma. Ecco, la mia risposta alla tua domanda all'inizio, dicevi io che cosa penso, insomma penso di già averlo fatto, no? La mia risposta è già in quello certo. che stiamo dicendo. Grazie Marina Terragno, grazie vi a voi, consiglio buona domenica. Il libro è molto interessante anche perché l'approccio della scrittura è interessante, un gioco da ragazze edito da Rizzoli, grazie ancora. Ileana Alesso, buona domenica. Buongiorno. Eccoci qua. Ileana è avvocato, autrice sì. di un libro intitolato Il Quinto Stato, storie di donne, leggi e conquiste. Proprio perché avvocato, Ileana si è occupata spesso di casi al femminile e allora volevamo fare un po' un excursus di quelle che sono state le conquiste femminili degli ultimi anni, perché siamo arrivati, grazie al cielo, qui, ci abbiamo messo molto tempo e bisogna ancora andare avanti. In questo senso, sì. da chi partiamo? Tu sei partita da un personaggio per raccontare il tuo libro. Sì, io sono partita appunto in queste storie che vanno dalle leggi di tutela del 1902 alla democrazia paritaria di oggi. Sono partita da tre figure. La prima figura è Lidia Poeta, una figura che pochi conoscono, ma fu la prima donna a voler fare l'avvocato. Ci mise 40 anni fino dal 1881 al 1920 e racconto delle cose che mi sembra carino, importante ricordare. Per esempio Matilde Serao disse nei confronti di queste nostre colleghe del tempo, disse: queste donne che vogliono fare l'avvocato sono peggio delle suffragette, vogliono soltanto votare e non vogliono lavorare. Quindi la caparbietà, la capacità di immaginarsi un futuro diverso, ecco, questo Lidia Poeta. Poi Franca Viola che una piccola ragazza, grandissima ragazza, aveva fatto solo la quinta elementare, rifiutò di sposare il suo stupratore negli anni 60. Sono storie grandi queste, sono storie che fanno fare dei balzi in avanti a tutte le donne, ma secondo me anche a tutti gli uomini, cioè sono storie di civiltà, sono storie di speranza E poi si passa attraverso, come dire, gli anni 70, né strega né Madonna, ma solo donna. Si passa attraverso la primavera milanese, no? C'è una parte dedicata proprio a questa, a questo vento che è cambiato qui a Milano. Noi abbiamo, attraverso il sindaco Pisapia, metà giunta al femminile, moltissime donne nelle partecipate, si giunge fino a un'ora quando. Insomma, è questa storia. 110 anni copre il libro, sì. Dal 1902 ad oggi, ed è proprio una storia narrata, questo mi ha fatto molto piacere, infatti il libro è già in ristampa, una storia narrata attraverso leggi, sentenze, canzoni, ci sono dei film, ci sono dei quadri, la prima legge del 1902 esce quando viene portato a Torino il quadro di Pellizza da Volpedo, che ha in prima fila una donna. Il quarto stato, ecco. Il quinto stato, ha ragione, mi chiedono sempre perché il quinto stato, perché nel 1875 un parlamentare, l'onorevole Salvatore Morelli, a un certo punto disse in Parlamento, questo risulta dagli atti, si fa innanzi imperiosamente come quinto stato la famiglia delle donne che reclama lavoro. Sotto questo aspetto è davvero attualissimo. Sì. È davvero attualissimo. Poi sono delle cose anche carine. Le faccio un esempio, una domanda giornalistica, no? Cioè, negli anni 30, sa come si chiamava il profumo più diffuso negli anni 30, quelli del regime, insomma? Come si chiamava il profumo più diffuso tra le donne? Si chiamava colpevole. Si chiamava colpevole. E questo dice tutto. Direi di sì, insomma, è una sorta di archetipo, no? Era l'epoca di balocchi, come dire, profumi. Oppure chi si ricorda, per esempio, che fino al 1971 era un reato punito con un anno di reclusione pubblicizzare la pillola. Però una cosa voglio dire a favore degli uomini nostri alleati, degli uomini con i quali lavoriamo, con i quali è un piacere lavorare. Nel 1983 la Corte Costituzionale fece una sentenza importantissima e disse che non è possibile precludere un lavoro ad un sesso, perché non è possibile che un sesso, che adesso si dice genere, sia ritenuto meno capace, certo, di un altro. Ma quella sentenza del 1983 riguardava degli uomini, dei ragazzi che, volendo fare gli insegnanti negli asili nido, vedevano un divieto in una legge. Questi ragazzi, coraggiosi anche loro, non meno di Franca Viola, non meno di Lidia Poet, avviarono una causa, giunsero fino alla Corte Costituzionale. E quindi quello che voglio dire è che questa esigenza, come dire, di libertà, di una società, come dire, diversa, dove vi sia spazio per le scelte individuali non precostituite, ha avvantaggiato anche gli uomini. Cambiando una parte del sistema, cambia tutto il sistema. E questi ragazzi dal 1983 hanno potuto vedere la loro vittoria, il loro ingresso nel occuparsi, come bravi pedagogisti, dei bambini piccoli. Ecco, tra l'altro riflettevo sul fatto, prima parlavamo d'amore, sì, no? L'approccio comunque diverso, no? Rispetto al potere. Certo. Ecco. Sì, ho sentito. E quindi così la supposizione poteva anche essere quella che gli uomini, un po', magari gli uomini quando sono al potere, hanno un po' paura, no? Di usare questo termine, cioè di essere così, di usare l'amore, tra virgolette. Sì. E forse invece proprio grazie alle donne che ci sono hanno più coraggio in questo senso, no? Può succedere, certo, questo? Io guardi, ne sono profondamente convinta, perché lavorando, come dire, anche insieme agli uomini, in team, in equipe, anche loro hanno la possibilità di esprimere sfumature diverse e non di essere, come dire, assolutamente costretti in questo stereotipo. Sì, certo, in un ruolo alla fine che... Esatto, dell'uomo che non deve chiedere mai. Ma è faticoso anche per gli uomini non chiedere mai, no? Assolutamente. No, mi sembra assurdo, no? E quindi introdurre le emozioni, sì, e l'amore come sentimento, se vuole, di passione. Ma guardi, adesso facciamo due esempi. Grandissimi uomini hanno avuto emozioni, hanno avuto sogni, hanno avuto, come dire, visioni. Non hanno attinto esclusivamente alla ragione, alla rigidità, alla razionalità. I sentimenti e le emozioni, l'amore in primis, fa parte di questo. Lei pensi che sull'amore poggiano veramente le più grandi scelte delle nostre vite, della nostra vita? Ecco, Leanna, allora facciamo una previsione anche, sì, per lei. Sì. E anche un augurio, sì, no? A questo punto, certo, la previsione, sì, sarà anche un augurio. Sì. Cosa succederà e cosa si può fare? Dunque, posso cominciare da cosa si può fare? Come no? Mi sembra, certo, mi sembra così strutturale. occorre credere che si può cambiare. Ci ha creduto Lidia Poët, ci ha creduto Franca Viola, ci ha creduto la prima donna che fece arrivare le donne in magistratura. Quindi cosa fare? Occorre crederci, occorre essere determinati, occorre perseverare, occorre costruire alleanze, occorre parlare con amore, occorre parlare con testa, ma occorre parlare con cuore. Questo è quello che va fatto, facendo capire a coloro che sono avversari nostri, che sono avversari dello sviluppo anche dell'Italia, perché anche questo è il tema, eh? Sì. È provato, ci sono fonti autorevoli, non solo italiane, non solo di noi donne avvocate, non solo di noi donne scrittrici, voglio dire, no? Fonti autorevoli dicono che le squadre miste danno migliori risultati. Questo è cosa fare, ma davvero crederci è il primo punto fondamentale. La previsione. La previsione, io davvero, come dire, io assieme alle mie amiche, alle mie colleghe, a tutte le donne che si stanno muovendo, come dire, in questa direzione, siamo tantissime, abbiamo davvero la percezione che siamo un punto di svolta. Il punto di svolta, guardi, ci fu. Cominciò l'anno scorso, se mi posso permettere una digressione. Perché se ricordiamo questo slogan di un progetto di legge dell'UDI del 2007, 50 e 50 ovunque si decide, quindi che lanciò, che portò in Italia la democrazia paritaria, noi l'anno scorso abbiamo visto a Milano, a Bologna, a Torino, a Cagliari, no? Giunte 50 e 50, quello del giugno, luglio, Milano poi innanzitutto, del giugno, luglio del 2011 ha segnato un punto di svolta. Io penso che ci ricorderemo di quella data. Ora si tratta di perseverare in questa direzione, ci sono le elezioni, come dire, amministrative. Io in un convegno settimana scorsa organizzato da Se non ora quando ho detto la legge elettorale è essenziale ma non è necessaria, perché nulla vieta che in queste liste, le prossime venture, penso anche alla regione Lombardia, vi sia per scelta, per autodeterminazione dei partiti, delle liste delle donne dei partiti, una composizione che consenta davvero di raggiungere, come dire, un risultato democratico della partecipazione alla vita pubblica di donne e uomini insieme per una società diversa. Io la vedo così, insomma. E così sarà, e tra le altre cose io voglio anche fare i complimenti a Ileana Alesso, perché il libro si legge tutto d'un fiato, perché sì, è interessante e poi molto snello, e questa è una gran cosa. Ho imparato da voi giornalisti, dai. è anche, non solo, è anche il linguaggio che ormai al quale dobbiamo in qualche modo anche far fede, perché questo è la comunicazione, ormai si fa così. Allora, il quinto sta Storie di donne, leggi e conquiste, Franco Angeli. Grazie ancora, Ileana Alesso, buona domenica. A presto, arrivederci. Grazie, tra poco, proprio partendo dall'uomo che non deve chiedere mai, parleremo di pubblicità, perché le donne nella pubblicità e anche gli uomini, insomma, come sono usate oggi ancora? Perché anche quella è comunicazione e anche quello fa da un profumo che appunto si chiamava Colpevole, abbiamo detto tutto. Il riposo del guerriero. Intanto vi ricordo anche la nostra pagina di Facebook, Il Riposo del Guerriero, se volete commentare quello che stiamo discutendo oggi, e il numero anche per i vostri messaggi 349-238-6666. Michele, l'uomo non deve chiedere mai ancora, o come possiamo chiedere qualcosa intanto? No, Stefano, l'uomo deve continuare. L'uomo continua a non chiedere. Siamo ancora lì, purtroppo. Allora, siamo ancora lì. Siamo Michele ancora Tosi lì. È un pubblicitario, abbiamo sentito tante volte, è un nostro ospite, direi quasi fisso, copywriter, e volevamo proprio discutere con lui le donne come sono trattate in pubblicità ancora oggi, perché insomma anche questo fa la pubblicità molto spesso condiziona, no? In qualche modo. Poi c'è sempre la diatriba se è la pubblicità che segue oppure se noi seguiamo la pubblicità, no? C'è anche quella diatriba lì. Dunque, ovviamente la pubblicità è colpevole. Tutti diciamo. Noi pubblicitari siamo colpevoli, perché inevitabilmente uscire dagli stereotipi non è il nostro compito. Ecco, scusi, una parentesi sola. Voglio dire, ho scelto di proposito Michele Tosi perché è un uomo, perché avrei voluto intervistare delle grandi pubblicitarie donne, ce ne sono moltissime. Invece la chiave qui è noi uomini come ci comportiamo ancora oggi quando scriviamo e facciamo i pubblicitari e pensiamo alle donne, punto di domanda. Ecco, scusa. Allora, io ho la fortuna di fare il copywriter, quindi scrivendo è più facile, sì. Però inevitabilmente l'immagine, ahimè, è sempre quella delle donne o molto attraenti o biecamente massaie, sì, perché sono i simboli che servono nella pubblicità. Veramente grattato il fondo del barile per pensare degli esempi diversi. Ma tu la sapevi questa storia del profumo colpevole? No, sinceramente no. Credo che sia una chiave proprio di lettura delle cose. Sì, sì, ma interessante. Io pensando a pubblicità del passato, mi è venuto in mente solo un esempio che è stato abbastanza clamoroso, che è quella del DAV o Dove. Sì. Di tutta la linea di cosmetici, eccetera, che ha usato proprio le donne normali tempo fa. Sì, esatto, sì, sì, anche un po' in sovrappeso, no? Aveva usato donne di tutti i generi, sì, giustamente. Le normali, le tutte, ed è stata una cosa molto bella e interessante, secondo me, un posizionamento molto coraggioso. Ecco, ci viene da dire coraggioso, perché di colpo, quando non c'è una donna particolarmente attraente o biecamente massaio, di nuovo diventiamo i pubblicitari coraggiosi che fanno vedere le donne normali. Ma è ben strana sta cosa, non dovrebbe essere così. Io ho solo un esempio storico mio, perché abbiamo usato una testimonial per un famoso Pandoro parecchi, sì, anni fa, usando Angela Finocchiaro, non certo scelta per la sua avvenenza, ma proprio per la sua caratteristica di simpatia e particolare verve, ma ancora una volta era una testimonianza, quindi rappresentava un mondo, sì, era ancora, certo, una volta uno stereotipo. Però dovremmo fare qualcosa, so che è difficile. Ecco, ma questa è poi la domanda, è, non so, dovremmo fare qualcosa, e poi però dov'è che siamo, dove ci sono i paletti, dov'è che siamo bloccati? Cioè, ancora si vedono il tablet con la donna particolarmente avvenente, con il tablet appoggiato sul seno, per esempio, ecco, per come, ancora perché l'elettronica quindi ha un pubblico solo maschile, punto di domanda, o prevalentemente non credo che sia più così. Sì, eppure così è ancora rappresentata. E quindi vorrei capire com'è possibile un po' discostarsi da questo modo di vedere le cose e dare anche ai pubblicitari la possibilità di far cambiare un pensiero. È difficile. Io credo che purtroppo quando noi riceviamo anche i documenti di briefing, come vengono chiamati, cioè l'incarico che viene dato al, sì, creativo, il target o è le responsabili d'acquisto, per cui di colpo tutta la fascia detersivi, detergenti, cucina, solo le donne lavano, in poche parole, gli uomini non solo sono destinati, cioè, gli uomini comprano invece tutto quello che è moto, auto, chiaro, elettronica, e lì non si esce. Io non credo che sia vero, ovviamente, e penso che quando si possa fare qualcosa di un pochino fuori da questo schema si riesca a avere un successo maggiore, perché in pubblico ben di grande valore, di grande maggioranza, quello femminile, possa apprezzare. Dovremmo scardinare questa cosa, ma... Ecco, ma più spesso con chi si ha a che fare quando appunto si discute con un cliente? E si ha a che fare più con uomini o si ha a che fare più con donne? Ho l'impressione che il motivo sia perché si ha a che fare più con uomini. Bravissimo, sicuramente sì. Purtroppo le leve del potere, del marketing, sono molto, molto spesso ancora in mano agli uomini. Ma devo dire che anche le bravissime marketing manager, brand manager che ho incontrato, inevitabilmente non osano, non sfoderano l'ascia di guerra dicendo no, basta, ma sì, molte si adattano a questo... consuetudine, questa consuetudine di usare la donna così, o la evitano o la coprono un po' di più in certi casi, in certe foto, in certi modi, ma non se ne esce. Mi spiace molto, però è così. Purtroppo anche i clienti, ma come le indagini di mercato, tutto quanto è un coro unanime su questo. Ecco, stile. Siccome la pubblicità un po' dispone, no? Perché propone, ma anche dispone, perché purtroppo, ovvio. Amplifica, sì, amplifica tantissimo, quindi è un atteggiamento, uno stato che viene amplificato. Quindi forse è l'unico caso in cui le persone stanno andando in una direzione e la pubblicità invece è ancora ferma lì. Forse sì, nel senso che io non ho mai creduto che la pubblicità possa essere avanguardia vera. Sì, ne abbiamo anche discusso. Sì, se non in certi rarissimi casi, perché si rischiano dei budget, si rischiano tanti soldi, per cui c'è un minimo di cautela, certo, esatto. Sì. Per cui questa cosa, soprattutto in questi tempi dove i budget sono sempre più piccoli e sempre più a rischio, certe cose così coraggiose si fanno ben poco, ben poco. Quindi seguiamo l'onda. Ecco, volevo dire anche che Michele Tosi credo che riuscirà, spero, a essere ospite nella puntata del Riposo del Guerriero in onda in diretta alla Salone del Libro di Torino, dove inviteremo poi gli ascoltatori a essere presenti e a fare le domande, perché proprio anche questo sarà uno degli argomenti toccati, no? Il un grande piacere, l'uomo certo. E la donna nella comunicazione, nel linguaggio, anche con la nostra Francesca Dragotto ne parliamo più tardi, quindi invitiamo gli ascoltatori anche a essere presenti proprio a Salone del Libro di Torino e a fare le domande direttamente, perché so che ce ne sono tante. Intanto grazie Michele Tosi, approvaci, ecco, tu e Piero. Fuori dalle signore Marina, fuori dalla sura Maria. Esatto, magari per Piero Campanini, che è il socio di Michele Tosi, l'art director, che ha a che fare con le immagini, anche lui qualche difficoltà immagino potrà averla in questo senso. Coraggio. Bravi, grazie, ciao, ci sentiamo e vediamo presto, grazie anche a te e anche a voi. Aggiornamenti sul traffico e poi un'altra ospite che così getterà quasi una sorta di provocazione. Il riposo del guerriero. Prima di parlare con la nostra nuova ospite volevo citare i libri, perché stanno arrivando molti messaggi, poi li leggerò alcuni di questi, e alcuni chiedono anche i titoli dei libri di cui abbiamo parlato. Il primo è quello di Marina Terragni, intitolato Un gioco da ragazze, e l'altro invece quello di Leana Alesso, intitolato Il quinto stato, storie di donne, leggi e conquiste. Adesso invece, con un filo di provocazione, sentiamo Federica Morrone. Ciao Federica, buona giornata. Buongiorno a voi. Allora, grazie per questo invito, tra l'altro è bellissimo poter parlare di donne tra una domenica in mezzo al 25 aprile e al 1 maggio, credo che non sia casuale. Grazie Federica, e di saper leggere anche il sottotesto. Allora, il libro si intitola 101 motivi per cui le donne sono più intelligenti degli uomini ma non sono ancora al potere. Ecco, quindi tra l'altro è arrivato un messaggio da Maura, è curioso, che scrive: la prima volta che voglio giocarmi le caviglie farò i lavori di casa con tacchi da 12. Ma chi le studia sta pubblicità? Poi ne cita anche una che lei non gradisce, dice, e mi associo, non la gradisco neanche io, ma non citiamo ovviamente di cosa stiamo parlando. Allora Federica Morrone, ci sono forse, anzi sicuramente, più di 101 motivi, tu ne hai scovati 101. È stato difficile veramente, perché avrei potuto continuare, però innanzitutto vorrei specificare una cosa importante, il potere di cui stiamo parlando, sennò altrimenti entriamo subito in un campo che poi magari non è quello di cui voglio parlare. Il mio libro non affronta il desiderio di raggiungere un potere troppo simile a quello maschile, che è quello della dominanza, perché non è quello che potrà cambiare il mondo e soprattutto essere incisivo in un momento di crisi come questo, ma il potere femminile, che è quello di amare, di scegliere, di dare la vita, di curare, di conservare. Credo che atavicamente la donna abbia questo proprio potere di conservare, di risolvere anche in momenti molto difficili, quanto mancano i beni primari e la gestione anche della giornata. Ecco, di questo potere parlo nel libro. Certo, anche perché Marina Terragni è stata la nostra prima ospite e proprio su questo abbiamo puntato la chiacchierata. No, perché ascoltata e mi trovo perfettamente in sintonia con lei. È proprio sul nostro potere femminile, su quello che dobbiamo lavorare, quello che negli ultimi anni forse in qualche modo è andato perduto. Abbiamo subito un'involuzione, insomma la cronaca degli ultimi 2 anni ci ha fatto vedere donne terrificanti, da cui insomma vorrei prendere le distanze, donne che hanno raggiunto magari posizioni di potere, sono arrivate anche in Parlamento, ma a quale prezzo, in quale modo, non con le loro capacità, ma sono state funzionali al potere degli uomini ancora una volta. Ecco Federica, come hai scelto in 101 motivi? Innanzitutto guardando dentro me stessa e guardandomi intorno e facendo anche un grande lavoro di autocritica, perché insomma dire soltanto che noi siamo perfette, meravigliose e che salveremo il mondo sarebbe un'immensa bugia. Innanzitutto nasciamo anche nelle nostre contraddizioni e noi donne purtroppo ci la viviamo benissimo, quindi dobbiamo anche essere capaci di analizzarle, di guardarle, di volgere verso un miglioramento. In fondo è proprio nella natura femminile quello di volgere verso una migliore evoluzione, quindi lavorando innanzitutto con me stessa, con molta autocritica e guardando quello che c'è intorno, guardando la cronaca, guardando il tipo di donna che poi in realtà lavora in un certo modo e verso un potere che è quello che in questo momento è necessario, è quello che parla di noi e non di io innanzitutto. Ecco, ci citi qualcuno di questi motivi? Non so, quello che o ti è costato di più scrivere o ci hai messo più tempo, oppure ti è arrivato proprio così di getto, magari sai, quello che poi ha fatto scatenare l'idea del libro. Beh, innanzitutto l'idea del libro forse è nata vedendo appunto donne che occupavano posizioni di potere e che a quel punto facevano dire agli uomini: ma come, dai, c'è un ministro, c'è un presidente di Confindustria, c'è questo e quest'altro, ma che in realtà poi non sono donne, non sono donne che esprimono l'energia femminile. E quindi il motivo scatenante del libro è nato proprio da questo: affermiamo la femminilità, non la donna che vuole raggiungere il potere a un prezzo alto, a un prezzo che noi non vogliamo pagare. Il 101 motivi, e tu insomma chiudi poi il libro col 101esimo, ma non sono, credo, in ordine di importanza, ovviamente, oppure sì, gli hai dato proprio no, così. Non sono in ordine di importanza, no, assolutamente, sono anche, ho fatto in modo che il libro potesse essere letto dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, o scegliendo dei pezzi a caso, anche proprio per saltare da un argomento all'altro, magari parlando di argomenti molto molto molto pesanti, anche perché insomma non dimentichiamo che è difficile affermare il potere femminile finché ancora alla donna non sono riconosciuti gli stessi diritti, la stessa dignità sociale, economica, privata, giuridica, insomma ne avete parlato, no, anche fino a poco fa, quindi da questo dobbiamo partire. Ecco, te lo chiedo semplicemente perché tu come 101esimo hai messo la mia nonna e invece forse l'avrei messo come primo. Perché ha 101 anni e è stato anche un gioco che si è presentato in quel momento, ma in realtà voler mettere il mio privato era semplicemente un modo per invitare poi le persone a viaggiare anche nella propria memoria, perché quella che poi è la memoria privata alla fine si riconduce a una memoria collettiva di donne che hanno vissuto un'altra epoca e credo che è importante sapere anche da dove veniamo prima di identificare bene chi siamo e verso dove vogliamo volgere, in modo che il progresso sia veramente un progresso. In fondo, insomma, tante donne meravigliose e più grandi di me negli anni 70 hanno combattuto per i diritti della donna e credo che vedere questa involuzione negli ultimi anni sia stato per loro estremamente doloroso. Lo è per me, che non ero lì, e immagino che per loro lo sia tantissimo. E quindi anche in nome di queste donne che hanno combattuto dobbiamo volgere verso un... è necessario. Siamo in un momento storico, insomma, chi non lo vuole vedere la crisi probabilmente se ne accorgerà fra un po' di tempo e poi dirà: oddio, è vero, avevate ragione, ma è un momento veramente cruciale, è un momento in cui dobbiamo rimboccarci le mani e volgere in avanti con la consapevolezza che le cose si possono cambiare, sta a noi, sta anche alla nostra capacità di essere coese. Ecco, c'è bisogno di femminile, di energia femminile, non dico di donne, dico di energia femminile. Certo. Anche quella che gli uomini sono capaci di cogliere, perché esistono degli uomini meravigliosi capaci di coglierla, quell'energia. Sicuramente, ma ne abbiamo anche parlato e forse bisogna anche che ci sia questo assolutamente, se no c'è un paletto e non si va avanti in nessun modo. Ma mi sembra che qualcosa si stia muovendo in bene, ovviamente. Grazie Federica Morrone. Parlarne è un movimento in bene, quindi è un modo per unire le persone. Grazie a voi, buona giornata. 101 motivi per cui le donne sono più intelligenti degli uomini, ma non sono ancora al potere. Francesca Dragotto, ciao, buona giornata. Buongiorno e buon riposo. Io so che ti ho stuzzicato con questo argomento, so che potrei tenerti in diretta per tutta la giornata, credo, fino a questa sera e di più. Sì, è vero, ed è anche colpa tua e colpa vostra, perché... So. Grazie al Guerriero, sono stata invitata a tenere una conferenza al Salone del Libro proprio su questo argomento e quindi una conferenza a due voci insieme ad un'altra donna linguista che però ha idee sensibilmente diverse dalle mie, per cui sarà molto interessante. Allora facciamo una cosa, Francesca, dedichiamo questi due minuti prima del GR proprio a quello che succederà al Salone del Libro di Torino, perché avremo due momenti, un momento che sarà tuo e la conferenza, adesso magari se vuoi così accennare il tema che discuterai, e poi c'è anche la nostra puntata di domenica in diretta. Sì, la conferenza, ringrazio anzi a questo proposito il professor Cardinale, che è poi l'estensore materiale dell'invito, è legata al tema. La grammatica è maschilista, per cui neppure il termine più generico sessismo, che ci permetterebbe anche di sfumare di più le argomentazioni, ma proprio direttamente la grammatica è maschilista, per cui partendo dalle riforme, dalle norme linguistiche con le quali si invitano gli utenti della lingua a non utilizzare più determinate forme, soprattutto in riferimento ai nomi di mestiere, passeremo a considerare tutte quante le implicazioni del maschilismo nella lingua e nell'uso della lingua. Ecco, ce ne sono tante, cioè, sì. Andrebbe sentita, perché già Francesca mi ha citato, siamo stati credo 2 ore al telefono, vero? Perché mi stai raccontando. Ecco, e poi domenica faremo un po' un'estensione di questa puntata con voi ascoltatori presenti lì con le vostre domande, alle quali Francesca poi risponderà, poi vi spiegheremo anche meglio, diciamo, nel corso di queste settimane qui su Radio 24, in occasione poi di quell'incontro. Quindi preparati, Francesca, perché gli ascoltatori in questo senso avranno molte molte curiosità. Sicuramente sono contenta che ci sia Michele Tosi, perché l'aspetto della figura della donna nella pubblicità è uno degli aspetti salienti. È fondamentale, e anche lui vedi come rendi fuori, io vorrei ma non posso, un po' quello è un po' il senso. Il riposo del guerriero. Carmen scrive: mio marito, laureato in storia con una docente donna che ha collaborato alla storia delle donne della La Terza, è convinto che se la storia fosse stata in mano alle donne le cose sarebbero andate diversamente e in meglio. È una mosca bianca? Non credo, sinceramente. Francesca Dragotto, eccoci ancora insieme. Allora, buongiorno. No, non ti faccio la domanda del convegno, perché la risposta non riusciamo a darla in qualche minuto. Ma quanto maschilismo c'è nelle nostre parole? Prima di rispondere direttamente a questa domanda vorrei fare una considerazione che può sembrare populista, però forse bisognerebbe dire che mancano i bravi nei posti in cui si decide, o forse i bravi ci sono ma sono quelli di manzoniana memoria, e il numero dei bravi di manzoniana memoria è decisamente cospicuo, stando a quello che la cronaca ci sta rivelando tutti quanti, soprattutto nell'ultimo periodo, ma non solo. Quindi, fatta questa premessa che può sembrare banale ma che probabilmente è un termometro della situazione del contesto in cui viviamo, e per toccare più da vicino questioni che hanno invece a che fare con la lingua, devo dire che ci muoviamo nell'ambito del cosiddetto politicamente corretto. Il politicamente corretto, i cui paladini sono stati definiti da un linguista, Massimo Arcangeli, se non i padroni, almeno tra i più grandi decisori della norma linguistica, una sorta di fustigatori, ecco, un altro linguista li ha così definiti, la cui attività ha avuto inizio grosso modo intorno agli anni 60 negli Stati Uniti con l'intento di combattere gli usi discriminatori della lingua, ma che ha finito per definire una norma che espone i trasgressori ad una censura che è di tipo morale, non di tipo linguistico. Quindi questo atteggiamento ha finito per alimentare, parallelamente alla o coniazione o ristrutturazione di termini in primis che servissero a definire professioni svolte da donne, un uso degli stessi termini assimilabili a degli eufemismi, insomma un atteggiamento che è paragonabile a quello che si verifica nel momento in cui rinunciamo a dire cieco per dire non vedente, diciamo disabile ma diciamo diversamente abile. Sì. Insomma, dal punto di vista concreto, dal punto di vista dell'uso della lingua nei processi comunicativi, il risultato è stato quello di indurre i parlanti, soprattutto chi si occupa di comunicazione pubblica, ad un controllo razionale delle proprie scelte linguistiche, la cui razionalità si evince dalla confusione che regna sovrana in questo momento, soprattutto in riferimento al ministro Elsa Fornero. Elsa Fornero, che con un suo intervento ha rilanciato, seppure indirettamente, la questione delle norme linguistiche di cui si dibatte almeno dalla fine degli anni 80, ovvero quali appellativi per una donna. Nel caso appunto del ministro che ho appena citato, ci si deve riferire ad ella, chiamandola la ministra, il ministro o persino la ministressa, perché naturalmente dal dibattito che è sorto dalle esternazioni della Fornero o di Fornero o di Elsa Fornero è conseguito anche un uso di ministressa dapprima tra virgolette e poi addirittura senza virgolette nel testo, quasi ad inizialmente come provocazione, ma quasi sì, ad indicare il tentativo di far circolare una nuova forma che è sicuramente cacofonica, però al di là della bruttezza espressiva, una bruttezza che probabilmente con l'assuefazione, con l'acclimatamento si potrebbe superare, il vero nodo che dobbiamo sciogliere è è possibile pensare che riformando la lingua si possa riformare l'atteggiamento della società? La mia opinione è che la lingua sia il punto di arrivo di processi che iniziano con i comportamenti sociali, tra i quali sono compresi anche i comportamenti linguistici, però naturalmente non tutti sono dello stesso avviso, anzi. Allora mi chiedo, per sentirsi meno discriminate si deve apparire identici a un uomo? Mi devo sentir chiamare Dragotto rinunciando all'identità di genere per quindi sentirmi la Dragotto, certo. Ma io preferisco Francesca Dragotto, sì, così chiaro, come mi presento quando incontro qualcuno o quando telefono, però sicuramente la soluzione non credo che sia quella di rinunciare a qualunque tipo di marca di genere, anche perché immaginiamo un quotidiano che finisca in mano a qualcuno che non ha molta dimestichezza con la cronaca politica contemporanea. Sì. Ci si può trovare di fronte anche a titoli del tipo Fornero e la Camusso. Ora, questo che significa? Che nel caso in cui non si conosca l'identità di genere delle due protagoniste, si avrebbe l'impressione di avere un ministro uomo, Fornero, certo, contravvenendo alla stessa logica, quindi andando a negare quella che è poi l'identità irreale. E questo, basta fare una ricerca con un qualunque motore di ricerca, non è capitato poche volte. In questo momento è sufficiente inserire il nome del ministro in Google, ad esempio, e verranno fuori tantissimi, decine, centinaia di articoli in cui appunto si parla di ministro, ministra, il ministro, la ministra, la ministressa, Fornero, il Fornero, addirittura appunto il Fornero, senza trovare pace, ma soprattutto dando l'idea di come ci sia questa confusione che denota da una parte la vittoria della consuetudine, e la consuetudine vuole che nel caso di donne si utilizzi l'articolo a precedere il cognome della donna, dall'altra invece un controllo che è razionale e che porta alla sua eliminazione. Ora lo so, mi si potrà obiettare che soltanto con una prima fase di controllo razionale si potrà pensare di arrivare successivamente ad una nuova norma, perché poi sono i parlanti che cambiano le cose, esattamente, certo. Però allora, se dobbiamo cambiare, perché non passare direttamente alla formula nome-cognome? Perché doverci omologare sul cognome, sul solo cognome, che appunto rende irriconoscibile l'identità della persona? Ecco, tra l'altro questo è un dibattito lunghissimo, e tra l'altro è l'opinione di Francesca, perché poi non tutti sono d'accordo ovviamente con quello che lei ha appena asserito, ma ci sarà proprio la conferenza su questo. Per cui e chiudo con una postilla personale: sono stata bacchettata da un ascoltatore perché tempo fa, quando tu mi hai presentato, tu mi hai chiesto se volessi essere presentata come ricercatore o ricercatrice. Io ti ho detto ricercatore. Un ascoltatore mi ha scritto rimproverandomi che nuocevo alla causa delle donne rinunciando ad essere definita ricercatrice. Posso rispondere, potrei rispondere, non lo faccio perché non è questo il senso, anzi ho trovato giovamento dal confronto con l'ascoltatore, che non è stato un confronto isolato, perché si tratta di questioni che possono apparire marginali, ma che, lo dimostra il fatto che comunque ciclicamente, torniamo a parlarne, evidentemente ancora devono essere metabolizzate. Lo faremo, ecco, grazie anche a quello che ci racconti, che racconterai, mi invitiamo poi, sono del libro Il Torino, avremo modo di parlarne. Grazie. Grazie Francesca Dragotto, grazie, buona domenica. Buona domenica. Ecco, a proposito di cose che apparentemente sono piccole, ma che invece hanno un peso, c'è Manuela Cipri al telefono. Buongiorno Manuela. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a lei, buongiorno ai suoi collaboratori. Allora, Manuela così si è messa a fare una ricerca curiosa, si è chiesta quanti nomi di fermata della metropolitana nel mondo sono dedicati alle donne. La risposta? La risposta, pochissime, pochissime, ecco. Anzi alcune proprio inesistenti, le figure femminili importanti, pensiamo anche al nostro risorgimento, no? Ma la ricerca è nata da poco tempo, è nata attraverso un libro, sì, di Elsa Osorio, una scrittrice argentina che io amo particolarmente, l'Argentina proprio come paese, perché ho vissuto per un periodo in Argentina, e la cui capo di Stato attualmente è una donna. E Elsa Osorio, questa grande scrittrice argentina, ha portato alla luce una figura di una sua connazionale argentina che comandò un battaglione in Spagna durante la rivoluzione spagnola, la guerra civile spagnola, e di questa donna lei ci mise quasi 10 anni. Allora a quel punto mi sono chiesto: ma quante donne sono poi scomparse nella storia? Sì. Allora, e quante donne vengono ricordate? Soprattutto le metropolitane sono nate, sì, a parte dal Novecento in poi, insomma, sono di epoche abbastanza recenti. Quante donne che hanno avuto anche un ruolo importante non vengono mai denominate, mai citate. Per esempio Montessori, la Maria Montessori, conosciuta in tutto il mondo, che ha lavorato molto nella zona di San Lorenzo a Roma, ma nella metropolitana di Roma non c'è neanche una targa al policlinico nella zona di San Lorenzo a Montessori, Maria Montessori. E poi quante altre donne non ci sono? Ecco, devo dire, a Milano pure sì, Carioli, certo. Ma è Benedetto Carioli, non Adelaide Carioli. E la donna era qualcosa di anche che ha combattuto, quando ha combattuto e credeva in qualcosa, veniva anche allontanata dalla famiglia. Si doveva anche rinunciare al proprio titolo nobiliare se lo aveva. Ecco, tra le altre cose, Manuela, chiaramente i nomi delle fermate della metropolitana si rifanno a quelli delle vie, delle piazze dove la fermata è presente. Sì. E quindi qua si aggancia proprio quella che è la toponomastica, sì, femminile. Ecco, tra l'altro di quello quindi parleremo tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Emanuela, ti ringrazio molto e speriamo che la tua ricerca porti nei prossimi anni a un'inversione, sì, di rotta. Sarà impossibile, ovviamente, ma almeno alla presa di coscienza. Anche ecco, delle strade denominate le donne della resistenza, le donne del risorgimento, in Italia per dire, sì, e poi dire in tutta Europa, perché anche in tutta Europa, anche da in Stoccolma ci sono solo 2 fermate della metropolitana dedicate alle donne. Quindi e non è Stoccolma. E direi proprio di sì, da quel punto, beh, di vista è molto più avanti di noi, dell'Italia in generale, però si prende sempre come esempio, no? Chiaro, quindi è un problema più generale e questo quindi è ancora più preoccupante. Grazie. Per esempio a George Eliot, che era una donna e che tutti pensavano che fosse un uomo, no? Che George Eliot, insomma, però questo sarebbe da discuterne molto, sì, molto a lungo. Grazie Manuela Cipri, grazie per la tua ricerca e buona domenica. Il riposo del guerriero. Maria Pier Colini, che è presidente del gruppo Toponomastica Femminile, parla proprio di questa ricerca sui nomi femminili delle strade. Maria Pia, buona domenica. Grazie altrettanto. Allora, avete fatto questa ricerca, immagino anche voi, non soltanto in Italia, ma anche nel resto del mondo, o mi sbaglio? Sì, sì, nel resto del mondo ci stiamo muovendo, ci sono già diverse ricercatrici in Francia, in Spagna e anche in Gran Bretagna. Però i risultati consistenti ovviamente li abbiamo più in Italia, perché noi siamo partite da qua, insomma. Certo. Quindi abbiamo aperto questa pagina, diciamo, Facebook, in gennaio e adesso siamo 3.100 persone che stanno lavorando o comunque interessandosi a questi temi. Ecco, allora, quello mi fa notare Veronica Gambara a Milano, c'è anche la fermata della metropolitana, però insomma siamo messi male, no? Sono poche, siamo direi. Siamo messi male, sì. Beh, la cosa più grave è che cioè, non c'è un immaginario femminile da proporre alle nuove generazioni, no? Quando esco, io sono un'insegnante, quando esco con le mie classi, mi rendo conto che se le ragazze si guardano intorno, oltre a manichini e pubblicità, vedono ben poco, no? Non hanno neanche la possibilità di giocare con le possibili identificazioni, no? Con un immaginario personale che apra delle strade, apra, no, la possibilità di vedersi proiettati in un futuro un po' diverso. Questa cosa credo che sia, da questo punto di vista, abbastanza pesante. Ecco, Maria Pia, nelle vostre ricerche c'è una nazione che invece più delle altre ha dedicato vie a donne? Diciamo che ce n'è poco ovunque. Diciamo che la grossa differenza tra l'Italia e altri paesi è che in Italia, anche se la percentuale più o meno è simile, quello che domina sono le sante, le madonne. Abbiamo delle situazioni incredibili, cioè, non so, per esempio a Trieste su 23 strade dedicate alle donne, 17 sono madonne, sante, beate, martiri, suore, e questa situazione si ripete ovunque, no? Cioè, abbiamo, che so, ecco, in Molise, a Campobasso, ci sono in tutto 12 strade al femminile, 7 sono madonne e sante. Insomma, ci piacerebbe avere anche un altro tipo di visibilità, no? Sicuramente, ma che cosa si può fare? Anche perché una volta che i nomi delle vie sono dati è molto difficile cambiarli, cioè, sì, succede, certo. È successo ovviamente, ma sono veramente casi che si contano sulla punta delle dita per una città. E che cosa si può fare quindi, guardando quindi oltre, perché sì, qui certo, dobbiamo per forza guardare oltre, perché ormai quello che è stato non si può cambiare in questo senso, diventerebbe complicato. Saremo anche contrari. Cioè, sì, non si può cambiare il documento, cioè, non si può creare un disturbo alla cittadinanza, esatto, no? Però ci sono tante alternative, nel senso, almeno le periferie, cioè quello che vorremmo vedere, sì, ci rendiamo conto che i centri storici sono andati, no? Ormai è fatto, ma oggi è cambiata la situazione delle abbiamo vie nuove, società, dobbiamo, no? Dare nomi nuovi, per cui possiamo partire da lì. Ecco, stavo pensando che non esistono solo comunque i nomi delle vie, ci sono i nomi dei giardini, per esempio. Ci sono i parchi, per esempio, sì, a Roma abbiamo un bel esempio adesso che è Villa Panfili, che ha dedicato molti dei viali interni alle donne. Infatti, per esempio, a Villa Panfili chiediamo un'intitolazione per Miriam Mafai, che abitava proprio lì, le sue finestre si affacciavano sulla villa, quindi ci sembrerebbe giusto, no? E noi stiamo lavorando con raccolte firme online, soprattutto con la sensibilizzazione ovunque. Ecco, perché l'unico modo per cominciare, e qui proprio chiudiamo un po' il cerchio dell'inizio, è la rete, no? Ecco, siamo partiti certo, da lì e finiamo quindi anche in questo modo. Sì. Maria Pia, allora vuoi citare il sito dove cos'è possibile fare, dove è possibile firmare? Noi abbiamo un sito che è aperto, su cui stiamo facendo, convogliando tutti i risultati, che sono soprattutto sulla pagina Facebook, perché è nata prima. La pagina Facebook si intitola Toponomastica Femminile, ci siamo solo noi, quindi è possibile, insomma, guardare tutti i risultati, mentre il sito è www.toponomasticafemminile.it. È ovviamente meno interattivo perché Facebook c'ha questa caratteristica, sì, insomma. Certo, e poi, non so, nelle altre campagne, una strada per Miriam @gmail.com per dare l'adesione alla campagna per l'intitolazione Miriam Mafai, e poi, insomma, prendo la pagina Facebook, si trova, e anche il sito, si trovano tutte le iniziative che portiamo avanti. Grazie Maria Pia Ercolini, buona domenica. Grazie, arrivederci. Grazie. E per chiudere questa prima parte del Riposo del Guerriero, dedicato appunto alle donne, c'è il nostro gastronauta. Il gastronauta Davide Paolini, nella sua guida da tempo, insomma, dedica molto spazio anche alle produttrici di vini, per esempio, ma anche alle grandi chef, visto che quando si parla di chef, immancabilmente subito si parla di un uomo, si pensa a un uomo, no? Davide, è così, ma di è solito. È vero, ma sai, è vero, perché fino a pochi anni fa la donna era regina della, diciamo, della cucina di casa. Ed era molto difficile trovare delle donne chef importanti, anche in giro per il mondo, non solo in Italia. Pronto? Sì, sì, ti sto ascoltando. Ci sono. Sì, e dicevo anche in giro per il mondo, cioè di donne sciate importanti non ce n'erano. Negli ultimi 10 anni invece è avuto una grande rivoluzione. In Italia, io lo ripeto spesso, cioè abbiamo 7 ristoranti 3 stelle e ben 3 sono donne. Quindi questo dimostra come c'è stata questa, diciamo, riconquista delle pentole, delle padelle anche pubbliche, non solo private. Ma non solo, sono cresciuti e stanno crescendo moltissime giovani emergenti nelle cucine, ad esempio Paola Budel è una di queste, ma sono tantissime, mi ci vorrebbe mezz'ora per nominarle tutte, perché dietro anche a grandi chef di solito in cucina si vedono degli aiuti chef che sono donne, che stanno crescendo e magari fra poco prenderanno il loro posto o andranno in altri ristoranti. E sul mondo del vino la rivoluzione è avvenuta perché oggi veramente moltissime aziende vinicole sono guidate da donne, ci sono donne enologhe molto brave, ci sono donne imprenditrici nel mondo del vino bravissime, quindi ormai credo che il settore dell'enogastronomia sia abbastanza, come posso dire, femminile, non lo sarà al 50%, sì. Però cominciamo ad esserci vicini e non ci sono più preclusioni assolutamente, tant'è vero che alle degustazioni ormai di vino si vedono più donne che uomini, che parlano di vino con competenza, ci sono ormai tantissime anche consumatrici, non solo coloro che lo producono o coloro che lo vendono, quindi sicuramente devo dire che dal privato, perché diciamo che un tempo le cucine delle case private e delle famiglie erano al 90% femminili e pochissime nella ristorazione, oggi invece diciamo che c'è sia l'uno che l'altro, quindi credo che qui assolutamente di maschilismo non se ne possa parlare. Devo dire tra l'altro una cosa molto divertente, che tanti anni fa le cucine e la famiglia in Emilia, in Romagna, era conquistata, era tenuta in mano dalla Zora, nonostante diciamo siano regioni che siano considerate maschiliste, però chi comandava erano loro. E quindi sicuramente poi piano piano hanno conquistato e sono arrivati alla ristorazione e quindi diciamo al fatto pubblico esterno della cucina. Ecco Davide, l'ultima domanda che volevo farti è questa: c'è un approccio diverso delle imprenditrici, quello che riguarda il vino per esempio, rispetto agli uomini, oppure l'approccio è uguale, simile, oppure c'è proprio un approccio diverso verso la visione della produzione delle cose? Ma non c'è molta differenza, perché vedo molte imprenditrici del settore vino che quello che gli interessa è vendere, poi in fondo anche loro è raggiungere dei risultati. C'è un modo di porsi completamente diverso. Diciamoci la verità, se si presenta una signora o una signorina anche carina in un ristorante da un ristoratore e gli vuol vendere il vino, forse ha un'accoglienza diversa, magari ben più aperta probabilmente. Ma poi dopo, quando si va diciamo ai fatti, la donna riesce a produrre, non è che il vino prodotto dalle donne sia diverso da quello degli uomini. Questo è chiaro, però è proprio un approccio a tante cose, dalla scelta dell'etichetta per esempio alla scelta di un nome, no? Da lì, per ma esempio. Guarda, non credo perché il mercato è quello, credo che tutti si debbano confrontare col mercato. Volevo ricordare che un po' di anni fa, circa 10 anni fa, era uscita una cosa che forse oggi non uscirà più perché non farà più notizia. Era uscita in Germania un vino prodotto da donne, vino prodotto diciamo in cantina da donne, imprenditrice donne e venditrice una donna, ed erano tutte gay, quindi si erano fatte notizia con questo. Oggi probabilmente questo non succederebbe più e probabilmente passerebbe abbastanza inosservato e sicuramente sarebbero accolte normalmente nel mercato, insomma. Quindi credo che i tempi siano completamente cambiati e la donna abbia conquistato un posto ben preciso. Devo dire veramente che nel mercato del vino oggi ci sono 4-5 imprenditrici donne che sicuramente sono leader assoluto, anche diciamo se facciamo il gota della produzione italiana sono sicuramente nei primi posti. Grazie Davide, ci sentiamo la settimana prossima, buona domenica. A presto. Grazie, ciao. Grazie. Continuano ad arrivare i vostri messaggi anche su Facebook, se man mano poi risponderò a quelli su Facebook soprattutto. Prima del nostro mistero in 24 minuti, voglio ricordarvi il numero 800240024, la nostra piccola rubrica sul mondo dei videogiochi. Video game. Vivere un'avventura vestendo i panni di un supereroe, di un'auto intelligente, di un topo gourmet, di un giocattolo spaziale o di uno scout sapientone. Tutto è possibile con Kinect Rush. Chi ha detto che giocando coi videogiochi si ingrassa? Credo di aver trovato il titolo più movimentato che abbia mai giocato in vita mia. Kinect Rush, disponibile esclusivamente per Xbox 360 con Kinect, è un videogioco che vi trasforma in uno dei protagonisti di 5 capolavori Pixar: Cars, Gli Incredibili, Ratatouille, Toy Story e Up. Lo so che il parco è bello, ma giocare alle avventure immaginarie con gli altri bambini è ancora meglio. Il plot è semplice. Siete invitati nel parco Pixar, dove i bambini vi stanno aspettando per giocare delle avventure ispirate ai vari film degli studios. E dopo una scansione del corpo che vi trasformerà in un bambino, dovrete muovere le braccia per girovagare per il parco. Trovata l'avventura che fa per voi, verrete catapultati in una storia che vi obbligherà a correre, arrampicarvi, saltare, nuotare, pagaiare, volare, guidare e fare molte altre cose ancora per cercare di portare a termine le varie fasi di ogni storia. Dovremo affrontare la corrente. Vai, pulcini, dovremo affrontare la corrente. Facciamo in fretta, avanti! Per poter affrontare le varie situazioni, sarete costretti a correre sul posto, muovere il busto, agitare le braccia, saltare e, in definitiva, usare tutto il corpo per fare in modo che il vostro avatar esegua le azioni richieste. Dovrete superare ostacoli e risolvere enigmi, da soli o in compagnia di un altro giocatore. E vi assicuro che dopo aver terminato un'avventura sarete spossati e felici. Ehi! È stato grandioso! Kinect Rush per Xbox 360, in definitiva, è un gioco per tutta la famiglia. Un gioco molto divertente che non ama affatto i sedentari. Il riposo del guerriero. Sono 1.000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La risposta, come sempre, può essere un personaggio, qualcosa di molto conosciuto o una delle notizie della settimana. E il primo indizio di questa settimana arriva tra pochissimo. Vi ricordo il numero di telefono per giocare: 800 24 00 24. Un mistero in 24 minuti. Eccola qui, ecco, mancava qualcosa, la sigla infatti, che però è arrivata. Quindi possiamo adesso far sentire l'indizio. E corri verso lui con la tua mano tesa, e corri verso lui, spalancagli un sorriso e grida evviva. Samantha, abbia mai visto Aggiungi un posto a tavola? Buona domenica, Samantha. Sì, buona domenica a voi. Ciao, hai mai visto questo musical? No, non l'ho mai visto. Però lo conoscevi, almeno questa canzone, sì, immagino. Certo, sì, la canzone, direi, sì, che è molto famosa. Allora, questo era il primo indizio, Aggiungi un posto a tavola, un indizio, sì, birichino, te lo dico subito, Così, sono stato... non buonissimo questa settimana. Primo indizio, proviamo. Birichino. Vuoi ascoltare un altro indizio e scendere a 5? No, vai Samantha. Avevo pensato alla notizia di quella signora pensionata, vedete, che è stata invitata ad una cena ufficiale perché è omonima di un ex vice ministro svedese, appunto. La signora si è presentata alla cena e poi è stata ritratta. Non posso dire niente, lo sai, solo al 24esimo minuto scopriamo la risposta. Grazie Samantha, ciao. Grazie, buona a voi. Domenica. Buona. Veronica da Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno Stefano. Allora Veronica, siamo a 1000 euro ancora. Ma io ho pensato un po' di notizie, però sì. Vorrei chiedere meglio un secondo indizio. Ecco, scendiamo a 500 euro, però dici, ma magari riesco a scartarne qualcuna fra le tante che ho trovato. Eccolo qui, il secondo indizio. Solo adesso sento che era importante, sento te. Dove sarai? Mi sveglio nel mare e tu sei un'onda che m'assale, affonda il cuore e lascia il sale. Dove sarai? È Eccoci qua, Veronica, questo è il secondo indizio. La voce di Mina l'aveva riconosciuta. Il titolo è Dove sarai? Dove sarai? Ma... Beh, a questo punto dico la notizia di Belen Rodriguez che si è lasciata con Fabrizio Corona e si investe con il fidanzato di Enno Marrone, il ballerino dei Miti. Ecco. Poi alla domanda cosa fosse successo di un giornalista, mi sembra sia stato schiaffeggiato dallo stesso Corona perché non ha gradito la domanda. Grazie Veronica, buona domenica. Grazie. Cosa ha detto Belen di essere un pericolo pubblico, se non mi sbaglio? Un po' andare in giro. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. È un pericolo pubblico Belen, secondo te? Perché dovunque va... Amo il pericolo a questo punto. Non sarai l'unico. Volevo dire anche agli ascoltatori che le mail le leggo tutte e rispondo di solito a tutte le mail, no, perché mi chiedono se così è, solo che appunto non lo faccio in diretta ma dopo la trasmissione. Allora Domenico, che cosa vuoi fare? Siamo a 500 euro, abbiamo già scoperto due indizi. No, provo con quello che avevo già in mente. Allora aspetta, sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Dove sarai? Mi sveglio nel mare e tu sei un mondo che m'assale. Allora, aggiungi un posto a tavola, Gianni Dorelli, comunque è un musical, e Dove sarai, Mina? Allora, io avevo pensato allo scandalo di Formigoni con le vacanze con Dacco, l'imprenditore, sì, della Fondazione Maugeri. Era un po' sarcastica la cosa con aggiungere un posto a tavola, visto che dividevano un po' tutto, facevano il riconto alla fine, poi dividevano e, come diceva lui, pagavano tutto. È interessante l'associazione. È come no, certo, l'idea devo dire è molto carina. Sono stato perfido sta settimana comunque. Grazie Domenico. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Siamo a 500 euro per Angela da Monza, forse, o forse qualcuno di prima, non si sa ancora. Angela, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho pensato al compleanno di 100 anni di Renato Rascel. Il mio musical così, me ho pensato a quello. Abbiamo anche ricordato questo. Grande, grazie Angela. Grazie a lei, buona domenica, grazie. Tra l'altro ogni tanto metto anche le canzoni di Rascher perché erano sempre molto interessanti e divertenti. Mario da Modena, buongiorno Mario. Buongiorno Stefano, complimenti per la trasmissione, per la gestione sempre ogni domenica della trasmissione. Grazie. Senta, Mario. Allora, la mia risposta già l'hanno detta, quindi ne do un'altra. La notizia sulla Nicole Minetti e sulle intercettazioni che ci sono state, sugli inviti che facevano tra le varie ragazze per portarle poi alla casa di Arcore. A fare il burlesque, giusto? Esatto, sì, così è. Anzi, vi invito a questo proposito, scusate, a vedere su YouTube uno straordinario dal mio punto di vista video degli Oblivion, che sono bravissimi, abbiamo avuto anche ospiti qua nel Riposo del Guerriero, e loro già in tempi non sospetti, nel senso già mesi prima della faccenda, avevano fatto una canzone molto carina, forse le ricordate, per I Promessi Sposi, in 10 minuti, e adesso ne hanno fatto un'altra canzone. Guardate, cercate Oblivion Burlesque e vedete che cosa appare, cosa potrete ascoltare, e anche, devo dire, una scenetta molto molto divertente, anche molto ben cantata e costruita. Grazie Mario intanto per la tua risposta. Buona domenica. Un mistero in 24 minuti. Enrico da Modena, buona giornata. Buongiorno Stefano Gallerani di Modena. Tutti di Modena siamo? Sì, tutti di Modena siete. Enrico, io mi buttavo sullo sport. Dimmi Enrico allora. Io direi Beppe Guardiola. Perché? Perché ha lasciato un posto a tavola a un probabile altro allenatore. Guardiola si è dimesso dal Barcellona e quindi ho tentato lì. Io so che è difficile. No, no, perché c'è anche il Dove sarai, no? Che è il secondo indizio. Vabbè. È quello lì. Grazie Enrico, buona giornata. Ciao, grazie. 800 24 00 24, siamo ancora a 500 euro. E nessuno che abbia dato la risposta giusta fino a questo momento. Rossana, buongiorno. Buongiorno. Allora, Rossana, cosa vuoi fare? Ma proverei così. Anche tu? Comunque, sì. Allora, dammi una risposta. Aspetta, va. Sì. Anche perché è un po' che non sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto. Ascoltiamoli. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Dove sarai? Mi sveglio nel mare, e tu sei un mondo che m'ha sale. Aggiungi un posto a tavola e dove sarai? Rossana. Dunque, mi sembra di ricordare una notizia di un signore che ha ritrovato l'amata dopo 35 anni frequentando i social network o qualcosa del genere. Vedi che servono a qualcosa i social network. Grazie Rossana, buona giornata. Ciao. Grazie anche a te, ciao. Emanuela da Verona, buongiorno. Buongiorno. Ciao Emanuela. Buongiorno. Ma cosa facciamo qua? Allora, per me la notizia riguarda l'indagine circa i posti a sedere sugli aerei, dove, no, non lo so, sto sorridendo perché... dove si preferiscono i posti in testa all'aereo, sebbene i più sicuri risultano in caso di incidente essere quelli di coda. Sì, ma tu cosa scegli di solito? Io? La coda. Ah, tu scegli la coda, ecco, dici giustamente. Va bene, che poi anche queste statistiche, vabbè, cioè, cosa sia più sicuro su un aereo, sinceramente, quando le cose non vanno bene, non mi sentirei sicuro comunque, però vabbè. Per esclusione. Grazie Emanuela, buona giornata. Ciao, ciao. Oh, Anna da Padova, buongiorno. Buongiorno Stefano. Devo dire la verità. Anna, sì, dilla, diciamola tutta la verità. Vai, buttiamo fuori. Mi hanno già spiazzato. Anna, tanto qua non hanno ancora portato a casa niente, sai, te lo dico io. Quindi non ti hanno spiazzato, ti hanno aiutato, semmai. Sinceramente, però, devo dire la verità. Io non guardo molto i telegiornali e non sento molto la radio in questo periodo perché è molto difficile ascoltarla con tutti i problemi che ci sono. Oggi mi sono ascoltata una bellissima trasmissione e ho detto aspetta che provo a intervenire e non ho più la notizia in testa. Senti, ma non guardi neanche il TG tipo? No, in questo periodo guardo solo Sky 24, TG Sky 24 a volte, non tutti i giorni, perché la difficoltà è proprio di affrontare i problemi per come sono in realtà, no? Certo, allora tu dici non voglio sentire, ecco, metto la testa sotto la sala, no, non funziona così, Non è così. Io magari mi passo i giornali, guardo un attimo i titoli e affronto le notizie, però ho paura di questo giornalismo quando arriva solo a creare ansia. Allora, questo potrebbe essere un argomento del riposo del guerriero, chissà che non lo toccheremo. Anna, ma quindi cosa vuoi fare? Mica ho capito, sai. Allora, io non vorrei togliere l'opportunità a qualcun altro. Vabbè, non vuoi rispondere, ho capito. Sì, veramente non ho più... cioè non hai idea, va bene, ti devo salutare. Grazie. Sì. Ciao grazie Anna. Ti ringrazio io te. Buona domenica. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Alberto da Modena, scusa, ti avevamo dimenticato. No, eccoti non lì. Non è un ciao. Problema, ecco. Assolutamente. Io sparavo anch'io. Abbiamo degli altri indizi qua sul piatto però, adesso lo voglio dire perché... sì, d'accordo, ma sono... mi sono messo questa idea e non te la vuoi togliere, esatto. Dicendocela, esatto. Va bene, vai. Allora io avrei pensato a un pensionato di Trieste che ha offerto il pranzo per il 1° maggio a 100 casse integrati. Vedi, grazie Alberto, grazie. buona domenica. Non posso dire niente. Anna da Padova l'aveva scritta prima. Piera da Bolzano, buongiorno Piera. Buongiorno a lei. Sei pensierosa? No. Ah, ma mi sembrava dalla voce. No, assolutamente. Allora, Piera, cosa vogliamo fare? Siamo fermi a due indizi. Volevo dire che a questo tavolo ricchissimo dei tesori occulti della Lega, ogni giorno si aggiungono degli ospiti illustri. Grazie Piera. Prego. Buona giornata. Buongiorno. Scusatemi se rido, ma a volte le associazioni fatte con gli indizi fanno sorridere. Insomma, spero che funzioni così anche per voi. Vi do il numero 800 24 00 24. Luisa da Modena. Sì, buongiorno. Luisa, buongiorno. Allora, Io avrei risposto quella di Renato Rasci, quindi so già di aver bruciato la risposta. Ma non è neanche quella giusta, l'ho detto, che lo so, non siamo arrivati. Solo che io quello pensavo. Ma un altro indizio non lo vuoi sentire? Se vuole, però non ho l'età. Non ha l'età perché pensavo Rasci. Non ha l'età per che cosa? Per essere così attuale delle cose moderne che mi farà sentire. Pensavo Ho capito, ma sì, no, nel senso che gli indizi sono legati alla risposta, ovviamente. Renato Raschel non è la risposta giusta. E quindi Luisa, lei non ha una risposta in generale. Non ho una risposta. Ecco, va bene, grazie Luisa, grazie. Buona domenica. È bello questo gettare la spugna così, perché pensavate, infatti di solito per questo non dico mai, no? Se qualcuno ha indovinato o meno. Giovanni da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Giovanni, allora cosa vogliamo fare? Perché qui siamo fermi a due indizi, siamo fermi a 500 euro, ma siamo anche fuori strada. Ti vorrei ascoltare una... Oh, eccolo qui. Prima Britney Spears con questa canzone che è Baby One More Time, quindi Baby. Giovanni, sì. Allora sono un po' in alto mare, comunque do la mia interpretazione. Sì, quello che è emerso dall'ultima statistica Istat dell'aumento a 4 milioni di stranieri in Italia. Grazie Giovanni, purtroppo non è la risposta giusta. Grazie Giovanni, buona domenica. Allora, niente, neanche questa volta è vero, io ve l'ho detto che sono stato in fingardo questa settimana, nel senso che aggiungi un posto a tavola, che tra l'altro è stata anche molto apprezzata dagli ascoltatori, mi fa piacere, anche come messaggio, e nascondeva la parola tavola. Tavola, tablet, ecco da lì, lo so che non è facile, però non c'è nessuna canzone che dica tablet, per cui alla fine abbiamo usato, che poi è table, però insomma tablet, tavola. Dove sarai? Dov'è il mio tablet? Punto di domanda, ecco, baby. Allora è successo questo, che un ragazzino di 15 anni ha aiutato la polizia a trovare la refurtiva. Penso che dei ladri sono entrati in casa sua, hanno rubato gioielli, soldi, un computer e anche un tablet. E così questo ragazzino, grazie al fatto che il tablet e anche gli ultimi smartphone hanno il localizzatore GPS, è riuscito a localizzare serenamente dove fosse il tablet e li ha fatti arrestare, presi. Quindi insomma, usateli nel modo giusto. È stato anche premiato il ragazzino dalla stessa polizia, che gli ha fatto un regalo per dire sei stato un baby detective, così l'hanno soprannominato. Da qui il terzo indizio. Non ce l'abbiamo fatta, sarò molto più buono la settimana prossima, vi voglio attenti, ci sentiamo, grazie a tutti e grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, a Gian Gabriel Lombardo in assistenza, Paolo Corleoni in regia. A voi buona settimana da Stefano Gallarini.